ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Stare più con me, bang.